Benvenuti a tutti alla nuova puntata di Geek Cookies, puntata 15. Questa volta siamo riusciti di nuovo a tornare dopo breve tempo, come pronosticato, e oggi avrete Mario come host principale. Buonasera, buongiorno, dipendendo da quando ci ascoltate, e vi introduco velocemente i nostri co-host. Abbiamo di nuovo il buon Francesco con noi. Ciao Francesco. Ciao e bentornati a tutti gli ascoltatori. E come nuova entry, ma old entry che abbiamo già avuto, il buon Giuliano. Ciao Giuliano. Ciao a tutti e buon pomeriggio, sera, barra notte, eccetera, eccetera. Perfetto, quindi stavolta vi sentiamo, ottimo. Benissimo, allora, questa volta siamo riusciti a tornare, come dicevo, in tempistiche più o meno decenti come da programma, quindi spero che stiate apprezzando che stiamo cercando di mettere un po' più di impegno per darvi un po' più di prodotti interessanti da sentire. Quindi oggi l'argomento principale che vogliamo introdurvi, di cui abbiamo già brevemente parlato nelle puntate precedenti, è il Raspberry Zero. Quindi oggi parleremo esclusivamente del Raspberry Zero, dato che è una schedina abbastanza nuova e che sta riscuotendo abbastanza successo in giro. Ci sono persone che danno più o meno valore a questa scheda per varie, diciamo, punti. Anche qui in trasmissione abbiamo pareri discordanti, diciamo, però diciamo che riusciremo a darvi una panoramica di cos'è, già l'abbiamo introdotto, ma ve lo ripeteremo, e cosa si può fare con questo piccolo oggetto. Riusciremo a bisticciare benissimo. Perfetto. Tutti quanti, perché ho notato nelle varie chiacchierate degli ultimi giorni che la pensiamo in tre modi assolutamente, esatto, diversi, quindi sarà bellissimo. Non ci possiamo solo picchiare perché siamo lontani, ci incontreremo apposta per picchiarci un giorno. Io prima di fare ciò vorrei fare una dichiarazione di intenti. Diciamo che io sono quello pro Raspberry Zero, quindi per me è stata una manna dal cielo. Voi vi ponete in qualche modo già particolare? Io sono assolutamente pro se cominciassero a fare una produzione seria. Ok, se ecco, lo fanno. Io invece sono concorde con Francesco e ancora ho qualche perplessità sul perché di questo prodotto. Ok, perfetto, quindi poi dopo ne possiamo parlare. Quando arriviamo a qualche punto su cui tu sei discordante, poi ce ne parliamo. Come diceva Francesco, ne abbiamo già discusso un po' in varie chat, sui social media, eccetera. E devo dire che sono anche abbastanza d'accordo con Giuliano. Cioè, in alcuni casi particolari, come tutto, non è che un prodotto può essere applicato a qualsiasi cosa. Però per me c'ha dei vantaggi Raspberry Zero, diciamo, eclatanti rispetto a altre cose dello stesso prezzo. E poi anche lì ci potrebbe essere da discutere lungamente. No, sì, ma io sono d'accordo, ma diciamo che vedo pochi punti su cui è forte e meno su... cioè, solo alcuni punti su cui è forte, di cui abbiamo anche già discusso. Per altri lo vedo un po', così medio, diciamo. Cioè non è, vabbè, non così attraente, dai. Diciamo, ecco, esatto. Dai, allora io comincerei a fare prima una carrellata su cos'è questo Raspberry, anche se l'abbiamo già introdotto variamente quando uscì, eccetera. Però cominciamo a fare una lista decente, in modo che chi sta ascoltando la prima volta abbia un'idea di cosa stiamo parlando. Mi aiutate a ricordarmi, quando è stata esattamente la data di uscita? Era dicembre l'anno scorso, no? È stato, mi pare, poco prima di Natale. Ok, quindi... Con la rivista MagPI numero 40, ah, esatto, se non mi sbaglio. Sì. Praticamente l'anno scorso è stata una grossa hype e ci si aspettava tutti verso dicembre un'uscita della Raspberry Foundation, e ci sono state varie speculazioni. Alla fine quello che è stato prodotto è stato un nuovo hardware. Nuovo tra virgolette, perché fondamentalmente è stato cacciato fuori il chip che era usato nella generazione precedente dei Raspberry, quindi il Broadcom BCM2835 per la precisione, che è stato upgradato, è stato overclockato a 1 GHz, un ARM 11, però è esattamente lo stesso processore dell'A e del B, prima generazione. È stato attaccato un mezzo giga di RAM, e poi è stato spopolato da tutte le cose che aveva prima. È rimasto con una piccola slot per la micro SD come quella di nuova generazione, una mini HDMI per video a alta risoluzione, e con due micro USB, uno per i dati, quindi per poter usare un hub per attaccare un qualsiasi periferico USB, e uno per l'alimentazione fondamentalmente. L'unica altra cosa in più che c'ha è, no, in più, l'unica altra cosa che ha attaccato sono i moduli per il GPIO, più altri 4-5 piccoli attacchini che, se non mi ricordo male, sono per l'SPI o sono per un'altra roba. Sì, vorrei sottolineare che il GPIO non è saldato, non c'è nessun connettore, quindi la scheda è molto sottile e gli attacchi aggiuntivi non sono dei fori sulla piastra, ma sono solo delle piccole piazzole, di conseguenza sono riusciti a stringere perché il foro sulla piazzola non rompe le scatole al circuito stampato dei vari strati della piastra. Tu parli dei test point dietro? Sì, sì, sì. No, io dicevo, oltre ai... GPO, ci sono altri, se non sbaglio, altri 4-5 buchini. 4, te lo confermo. Ah, ok, ma quelli sono bugati sulla PCB o no? Ok, non so. Sono bucati, okay. ce l'ho davanti. Perfetto. Sì. Sì, sì, sì. Se tu vedi dietro, ci sono tutti quei piccoli test point che sono veramente dei rotondini di rame, cioè una traccia lasciata libera. Che... Sì, sono delle piazzole per saldarci qualche cosa sopra. E fondamentalmente quelle sono state usate da moltissima gente per poter attaccare direttamente su roba non disponibile nei GPIO, quindi il power, l'attacco direttamente ai dati USB. Se non sbaglio, uno potrebbe anche tirar fuori l'HDMI e altra roba. Quindi... Sì, c'è qualcuno che ha persino preso un hub USB, gli ha tolto la confezione, ha saldato i due fili al bus dati, i due fili per l'alimentazione e praticamente esatto. Ha trasformato il PI0 in una scheda leggermente più spessa ma con quattro sì. Porte USB normali. Ce ne ho uno anche qui, ancora non l'ho saldato perché non ne ho l'utilità, però effettivamente se andate a vedere sul sito di HD dove spesso pischiamo idee, c'è praticamente ormai la gente è arrivata alla noia per ecco un nuovo hub USB, gente che li ha fatti col form factor esattamente uguale, ne hanno fatti anche dei Kickstarter, alla fine è andato un po' a noia. Comunque se comprate un hub USB da 3-4 euro qualsiasi piccolo, tirate, come diceva Francesco, tirate fuori i cavetti di alimentazione e alimentando i dati, attaccando direttamente su questi test point potete alimentare l'hub e attaccando periferiche al hub voi alimentate i Raspberry e potete attaccare quello che volete, tastiere, mouse, quello che vi pare. Quindi è un modo per avere un oggetto compatto con più uscite USB, che questa è una delle maggiori critiche che è stata fatta, anche se secondo me è una cosa abbastanza, come dire, secondaria. Ma il fatto che manchino le USB essenzialmente è una rottura di palle quando bisogna cominciare. Ma magari ne parliamo dopo quando vi raccontiamo come si inizia esatto. usarlo. Però comunque è una delle si risolve, ma è una delle rogne più grosse. Esatto, ok, quindi la scheda l'abbiamo più o meno definita. E aggiungerei una piccola chicca: se andate a cercare da qualche parte su YouTube, vi mando poi il link, c'è qualcuno che ha fatto il teardown della scheda, l'ha smontata tutta. Praticamente il chip non è un chip, sono due chip uno sull'altro. Quello su mi sa che è il modulo di SRAM attaccato su, è incollato sul processore. Sì, è bellissimo perché sembra un chip solo, ma invece se si va con la lente di ingrandimento si vede anche. Si vede di lato. Sono due, uno sull'altro. Hanno fatto un lavoro di ingegnerizzazione sulla dimensione della scheda fatto veramente bene. Sì, c'era anche un bel articolo su come sono arrivati alla... realizzazione, il design iniziale è un pelo più grande. Ah, sto vedendo un attimo sulle foto ad alta risoluzione, quei GPO extra che dicevo io, ce ne sono quattro, di cui due sono per attaccare un tasto di accensione e spegnimento. Ecco cos'era. Ah, ok, sì, perché in effetti manca il pulsantino di reset. Vabbè, non c'è mai stato effettivamente su nessun Raspberry. No, sul Raspberry c'è, se non erro, no, sai? No, sicuro? No. Mi sa di no. No, non c'è. Aiuto. No, lo devi sempre mettere tu se vuoi. Sto andando a raccattare il Raspberry da cui ho tolto volumio, quindi... Okay, noi intanto continuiamo. No, ce l'ho nel cassetto qua esatto, dietro. Lui vive in una spozza piena di Raspberry, schedine, robe così. Non dite troppo perché purtroppo è vero, sì, quindi... Spero, ok. Ok, quindi, allora. Ok, diciamo, tutto questo si accompagna con un prezzo ridicolo. Fondamentalmente il prezzo... Allora, quello che dicevano i ragazzi prima... È vero, fondamentalmente il prezzo ufficiale è di 4 dollari o 4 sterline, 4 euro, 4 qualcosa. Il problema è trovarlo. Perché, Sì, allora il fatto è che questa scheda qua, essendo un sistema operativo intero, ha il GPIO, si può sviluppare in qualunque linguaggio, si può installare qualunque cosa sopra, è bellissima. Ma non si può comprare, quindi a che cacchio serve? Esatto, vabbè, non si può comprare. Mi sa che quelli che sono stati adesso distribuiti nel mondo era rimondata di quei 10.000, fatti a dicembre. Poi io mi ero iscritto dove l'abbiamo presi anche noi, su Pimoroni o Piatto, un altro paio di negozi. Da adesso, cioè diciamo da dicembre adesso, un paio di volte sono tornati in stock, ma pochi, cioè tipo una o due. Quindi secondo me hanno venduto poco più di qualche decina di migliaia di unità in tutto. Ma il problema è che io mi sono già pensato tutta la casa domotica basata sul Raspberry, ma non posso inseguire questi siti a prenderne uno per volta, no, perché no, ce n'è pochi. Cioè io vorrei andare su Amazon, ne voglio 10, spendo 50 euro e ne ho 10. Ma infatti io sto aspettando questa cosa, perché sono sicuro che durante questo anno diventerà come il Raspberry. Se ricordate all'inizio quando uscì il primo A, ci fu una corsa assurda, gente che lo cercava ovunque. Adesso te li tirano dietro, quindi va un po' aspettato secondo me. Sì, bisogna aspettare, perché l'alternativa è usare l'A, ma l'A no, ha due grossi difetti, a parte le dimensioni, secondo me. Il costo, prima cosa. Uno che costa comunque quattro volte tanto, e due c'ha la metà della RAM, e quindi non è assolutamente concorrenziale sul mercato. Ma anche la più, dici? Adesso non mi ricordo. Ma consumerà anche un po' di più o no? Non un po', consuma veramente una marea di più, perché non essendo ottimizzato, perché qua hanno fatto un grandissimo lavoro di ottimizzazione anche dei consumi, cioè è davvero, dovrebbero venderlo a 2 euro là rispetto ai 5 del P0, secondo me. Effettivamente. Io avevo cercato proprio questa cosa dei consumi, se mi dai un attimo ti dico esattamente. Allora, il P0 so che con in idle, con tutto attivo, quindi con il collab USB attivo e l'HDMI attivo, consuma mi pare 160 mAh. Sì, ma quello dipende anche molto da cosa c'è attaccato, cioè tipo se non attacchi l'USB, se attacchi la wireless. Diciamo è ovvio, la scheda wireless consuma, se attacchi un hard disk lui deve fare comunque traffico dati, allora, eccetera. Allora, ce l'ho avanti, ti dicevi, la più in idle consuma 100, dice qui, su Raspi TV, che è abbastanza serio. Però già che stai facendo video e roba del genere, aumenta di molto. Ma allora mi rimangio tutto quello che ho detto, guarda, perché consuma 160 zero. No, qua dice 100, però non mi fido, mi ricordavo anche io, intorno ai 100-160, perché poi dipende molto da come la misuri. Cioè ci sono stati molti, ho seguito molti forum dove lì ognuno utilizzava un oggetto diverso per misurare, ci sono state differenze di anche 80-100 mAh nella misura. Ma forse dipende da quanto è preciso, sì, l'amperometro, e dipende da che cosa ci gira sopra. Esatto. Secondo me un test reale, purtroppo, per esempio, secondo me il consumo cambia a seconda del tipo di memoria che ci metti sopra, perché se lui deve fare tanto IO8 magari consuma, perché cerca di leggere in continuo sulla scheda. Tra l'altro in idle non vuol dire quasi niente, perché significa semplicemente che non fa nulla senza niente attaccato, quindi e quindi è inutile. Esatto, quindi diciamo sotto i 200 mAh dovrebbe essere, facendo robe normali, quindi senza troppi accessi, senza enormi scritture, senza troppe periferiche eccetera, che per un oggetto così piccolo pensato per fare poco è secondo me decente. Secondo me sì, però parlandone con Giuliano l'altra volta, lui se non ricordo male, Giuliano sì, correggimi se sbaglio, diceva che comunque è tanto, perché altri dispositivi usati come microcontrollori consumano talmente meno che si può pensare di metterci una batteria. Sul PI0 no, perché con ma guarda, io avevo letto con 200 mAh comunque le batterie durano poco. Sì, ma io avevo letto varie cose che stavo pensando di implementare, tipo che tu puoi disabilitare l'USB, tu lo usi come sensore per esempio, puoi disabilitare l'USB completamente e farla riattivare da script solo quando ti serve, quindi tu disattivi wireless USB e scendi a una roba tipo 80 mAh. Poi magari disattivi l'uscita video, disattiva che non serve video. E un'altra cosa che avevo letto erano anche i LED, che sembra una cazzata, però si ciucciano citare 5-10 mAh e altre varie cose. Sì, ma quindi si può disattivare, sì, i LED? Io pensavo di no, ma ho trovato un forum scritto in Kazakistan, in russo. Dacci il comando, che sono curioso. Al poi massimo non ce l'ho mai riuscito. Anche di saldare. Sì, però là io non lo farei, perché non so alla fine il circuito se per quei pochi milliampere. Però quello che volevo capire è, ma il lo zero si può mettere in un deep sleep in modo poi da poterlo far risorgere in pochi secondi, oppure se lo spengo quanto tempo ci mette poi per riaccendersi e quanto consuma proprio nella riaccensione? Allora, dunque, io so che essendo un Linux, non penso che supporti il fatto mi autospengo per autoriaccendermi quando non serve. Non sono troppo sicuro. Secondo me non funziona. Il boot, io ho fatto 2-3 test, ci vanno 25-30 sì, 30 secondi se non usi l'interfaccia desktop, ma se lo usi come sensore la parte desktop non la installi neanche. Certo. Sì, ma io lo uso headless, quindi senza monitor. Sì, una ventina di secondi ci mette comunque. Tra l'altro tenendo conto che essendo solo wireless deve poi attaccarsi alla rete e tutto, che ci mette un po' pure quello. Sì, e ovviamente ci mette 20 secondi con una scheda in classe 10. Se si compra una scheda più lenta, i tempi raddoppiano. Guarda, io sto usando una classe 4 perché non avevo voglia di spendere soldi per quelle che ho trovato, e va più o meno con questi tempi. Sì? Sì. Ah, pensavo che andasse molto molto più lento. In realtà avevo letto un tizio che aveva fatto test su tutti i tipi di schede possibili e ho trovato che in realtà c'era, diciamo, un avvallamento di prestazioni che non è allineare con la velocità, per una serie di motivi, di come sono fatte le schede eccetera. Lui consigliava di usare classe, mi sa, 8, di non superare tipo la 10, perché comunque alla fine non aumentavi le prestazioni di lettura, perché il bus del Raspberry è anche limitato. Beh, tieni conto che le classi ultra costano veramente un sacco di soldi. Io, a proposito di questo, mi sono messo oggi a cercare sui siti, che io li compro sempre su eBay. Ho detto, ma perché non compriamo anche dei nostri amici cinesi anche le schede? Dietro l'angolo. E ho trovato schede a 128 GB a $10, una roba del genere. Ma ci sono anche quelle fake, però, bisogna stare attenti. Ah, quello sì. Vabbè, però è un venditore che ne ha vendute centinaia di migliaia. Tra l'altro aveva anche un hub in Inghilterra, quindi spedisce dall'Europa. Male che va, vai. Comunque vorrei soltanto dire che le cose che ho ordinato in Cina prima di fare la prima puntata del doppione di gennaio ancora non è arrivato niente. Ma forse è che hanno visto, ma forse è l'Italia, non lo so, a me è arrivato tutto. Ma io la roba che ho ordinato per, guarda, tra il giorno di Natale e il giorno prima di Natale e qualche giorno dopo Capodanno è arrivata quasi tutta. Anch'io, e me l'ultimo, a me ancora niente, mio ordine a dicembre, inizio gennaio, già mi è arrivato tutto, tranne l'ultimo pezzo è arrivato adesso, mi è arrivato tutto tra dopo un mese e 6 settimane, quasi tutto. Una roba, oddio, la verità, mi hanno anche rimborsato una roba che non è arrivata, ma credo sia problemi di poste, perché forse hanno visto o hanno capito o hanno bloccato lì, non so dove, insomma, comunque non è arrivata, mi hanno rimborsato. La frontiera con la Sardegna, forse. Sì. E se sentite del rumore di fondo con uno che canta, è il vicino del piano di sotto che tra un po' scendo e abbatto, ok? Vai, siamo con te, i vicini devono morire sempre. Ok, allora, continuando in scaletta, Francesco, nella scaletta cosa, questo punto dove siamo adesso, ci sei anche tu, no? Sì, sì, siamo alla faccenda della produzione, okay. Il fatto che ancora non sappiamo quando sarà realmente prodotto su larga scala. Una cosa che io ho letto a proposito di produzione è che loro si vantavano, stavo pensando a questa cosa di ordinare in Cina, di cui parliamo ogni tanto e ci divertiamo, no? Loro si vantavano, noi li facciamo in Inghilterra perché siamo l'orgoglio, però alla fine fondamentalmente hanno progettato i PCB e sono sicuro che i componenti elettronici non li producono in Inghilterra, quindi semplicemente li assemblano. Al massimo. Ma sì, ma come fanno tutti, se non mi sbaglio, Seco, quella che fa le schede della Udo, i pezzi li compra all'estero. Poi ovvio, la progettazione del PCB e il montaggio lo fanno a Arezzo. Okay. Ma non penso che ci sia più nessuno in Italia che produca chip. Penso, eh? Ma anche i PCB, penso, al giorno d'oggi in Cina te li tirano dietro, cioè tu li progetti e poi te li fai fare. Sì, ma costano talmente poco. Sì. Vedevo sul sito del Fab Lab di Torino, hanno fatto un progettino che è molto carino, che si chiama Robottino. Ho visto, e si sono fatti fare i PCB. Dovrei chiedergli dove se lo sono fatto fare. Non penso qua nel Ma tra l'altro se voi avete mai provato a produrre un PCB con solventi eccetera, è una cosa talmente inquinante, cioè assurdo. Beh, sono molti acidi. Io l'avevo fatto alle superiori, il fatto che compri la scheda, ci disegni sopra con il pennarello e poi lo bruci tutto il rame che c'è in aggiunta con l'acido. Era una roba terribile. Adesso penso che il PCB lo disegnino. Ma ci sono varie tecniche. Oh, sì. Raga, io ne ho fatti parecchi di quelle robe. Ah, vai, vai, dacci la tua conoscenza. No, si usa il percloruro ferrico per questa roba. Mangiarsi qua, per mangiar via il rame che non è coperto, diciamo così. Tra l'altro non so neanche se sia un acido particolarmente inquinante e forte, però quello che c'è da dire è che si può riutilizzare anche diverse volte, quindi non è un PCB e lo butti, perlomeno da quello che ho, certo, più vai e più tempo ci vuole per avere il circuito pronto con annessi e connessi, però cioè, si fa. Adesso poi, tra l'altro, anch'io ho usato il pennarello, okay. Poi ho usato i trasferibili, come diamine si chiamano. Sì, quelli lì. Sì, quelli lì per fare le piazzole fatte bene, perché fare le piazzole con il pennarello è una roba terribile. Sì, esatto, piazzole, anche piste, ho usato anche per le piste, soprattutto per le piazzole degli integrati. Usavamo il trasferibile. Eh sì, perché trasferisci già tipo il due file da otto piazzole ed era esatto. Facendo il foro l'integrato ci cascava giusto, esatto. Giusto. Vabbè, dimmi, prego. No, diciamo che da poco le ultime che ho fatto ho utilizzato dei fogli particolari che un tempo erano solo blu, adesso li fanno anche di altri colori, che si stampano con la laser, dopodiché con il ferro da stiro trasferisci praticamente il toner sul circuito e poi lo metti nell'acido. Ma davvero? Sì, infatti quello volevo dire, che anche io l'avevo sentito. Ma che figata! Così la precisione aumenta un sacco, progetti col CAD, quello che vuoi. Sì, esatto. Voglio il link, datemi il link perché potrei spendere. Francia, non ti serve, cosa. Non ti serve, te lo dico, basta. No, ma volevo aggiungere un'altra cosa, che per fare i circuiti è bellissima, era un progetto su Kickstarter che ora vendono. C'è un pennarello fatto con un inchiostro che conduce ed è anche magnetico. Sì, il wiring, come cacchio si chiama? Non me lo ricordo il nome. Tu disegni il tuo circuito su un pezzo di carta, poi fai l'interruttore che è un angolino del pezzo di carta che pieghi sopra e hai il circuito fatto sul foglio. È bellissimo. Sì. Allora si chiama... A parte i circuiti fatti con il filo, quelli che si usano per il wearable, cioè sì. Tipo Lilipad, sì, no? con il filo di tipo di stoffa, ma che esatto, conduce. Sì. Ok, ho trovato un sito che si chiama Bear Conductive, hanno proprio, se vuoi, boccette di inchiostro conduttivo che puoi spennellare quello che vuoi. Figurati. Ho visto robe fatte anche questa figuri. non era la puntata dei gingilli. Infatti, dove basta, spendere basta. Soldi, ma mi sono trovato già da 100 euro da poter spendere. Basta, sicuro. Adesso stop. Allora. Allora, possiamo passare al punto successivo, che è come si inizia, direi. Io, quando Mario me l'ha mandato, perché per evitare la questione che le poste italiane da Piboroni non sono gradite, quindi spediscono solo con DHL, e la spedizione sulle 5 sterline del Raspberry era di 20, io ho fatto il ponte con Mario ha speso 4 euro di spedizione e poi me lo ha mandato. La prima cosa l'ho preso in mano e ho detto qua serve per forza un hub USB, e vi spiego perché. Fase 1, si scarica la ISO della distribuzione a Linux sul PC, la si scrive sulla chiavetta con, se avete il Mac o Linux, con DD, facendo attenzione a non scriverla sul vostro disco di sistema, che se no vi brasate tutto. Una volta scritta si fa partire il Raspberry, si attacca il monitor, si attacca alla porta USB, tastiera e mouse. Io ho la Logitech di cui abbiamo parlato la puntata scorsa, che ha sia tastiera che trackpad. Il problema è che non si attacca l'antenna Wi-Fi, quindi o vi configurate la Wi-Fi, riavviate e sperate che parta, oppure per la prima volta usate per forza un hub, così usate sia la tastiera che la Wi-Fi. Quando poi la Wi-Fi funziona, si usa tutto via SSH. Posso. Questo ma io non sono d'accordo. È la sintesi. No? E com'è che hai fatto tu? Io ho fatto semplicemente così, ho preso ho scaricato la distribuzione, l'ho scritta sulla chiavetta, e in realtà adesso sto anche migliorando questo processo, perché quando scarichi la distribuzione tu puoi montare direttamente la distribuzione come fosse un disco esterno, quello è un'immagine disco pari con le due partizioni, una di boot e l'altra col sistema, e poi andare a scrivere direttamente il file che è il WPA configuration... Il WPA supplicante.conf if config, se non sbaglio, interfaces. Ok, e poi nel WPA supplicant ci metti i parametri della tua configurazione. Lo scrivo semplicemente, l'ho modificato direttamente sul computer su cui stavo scrivendo la scheda, però sto tirato dentro al Raspberry acceso e lui è andato in rete. Quindi ciao, non ho dovuto fare assolutamente, io ho completamente disattivato l'HDMI anche internamente, anche attaccando non va. Quindi a me non è servito. Ok, sì, per risparmiare, quello volevo farlo pure esatto. Io. E si monta il punto IMG anche su Windows? Allora, questo è il problema. Il problema è che l'immagine che devi andare a scrivere è un X4, un file system di Linux. Ora, non ho trovato su Mac un prodotto che non sia a pagamento. C'è anche tipo il Mac, il Fuse, che uno può montare anche tramite fusibili, altri sistemi file system, no? Non ho trovato uno che scrive l'X4, si può solo leggere. Quindi la mia opzione attuale è quella di usare tramite Virtual Machine. Io ho una Virtual Machine Debian base vuota. Tramite quella monto la chiavetta e posso scrivere tutto quello che voglio. Tra l'altro adesso mi sto anche evolvendo, sto scrivendo una Virtual Machine tramite Docker. Il cui unico lavoro è quello di montare l'immagine, scambiare i file che ti servono e ti tira fuori, diciamo, nella stessa directory, ti modifica la tua immagine con i tuoi file di configurazione della wireless, quindi quella lì la scrivi sulla tua chiavetta e va direttamente nella tua wireless in rete direttamente. Ah, ecco, il mio progettino. Bello, bello, mi piace. Secondo me questo progetto qua dovresti metterlo da qualche parte, perché devo, è interessante. Lo devo raffinare. Alla fine Docker è buono perché gira su tutto. Poi tu lanci questa immagine e dici in quale directory c'è l'immagine, cioè lanci il container di Docker, diciamo le parole giuste, gli dici quale l'immagine che vuoi utilizzare, lui la apre, prendi i file di configurazione e tu li metti da qualche parte, ce li scrive dentro, richiude e la tua immagine è pronta per essere bruciata sulla scheda e andare in rete. L'unica cosa che non ho ancora visto è tu poi devi accedere e fare tutta la configurazione a questo punto. In teoria penso si possa fare, sono dei modi per poter configurare il sistema anche a monte. E c'è anche un modo che si chiama, c'è anche un'immagine net installer che è tipo 20 mega in cui tu... Ah, e che lui si scarica solo i vari moduli, esatto, di cui tu hai bisogno. A parte quello, sì, quello, poi puoi anche dare tutta la configurazione wireless. Quindi tu scrivi 20 mega sulla scheda, lo lanci, però deve essere su internet, quindi se è su una rete interna chiusa eccetera non va. Lui si tira giù tutto quello che tu gli hai chiesto nel file di configurazione testo e poi mette anche i file di configurazione della wireless che tu gli hai dato, e dicono che in genere una ventina di minuti lui è pronto per partire. Quindi puoi anche settare l'IP, quello che vuoi. Quello è anche molto interessante. Carino, carino. Sì. Io comunque alla fine l'hub USB ce l'avevo nel monitor, mi sono fatto il lavoretto lì, ci ho messo davvero 5 minuti, ho testato che funzionasse e l'ho riavviato. Boh. Ok, quindi siamo passati a come farlo, a come avere un oggetto del genere funzionante, no? Sì, vorrei sottolineare una piccola nota. Noi stiamo parlando del Raspberry Pi 0, ma tutto, praticamente tutto quello che abbiamo detto, tranne il costo, è assolutamente la stessa cosa per l'A, il B, il B+, il 2, eccetera. Cioè non cambia niente, cambia solo il form factor. Quindi anche quello di cui parleremo dopo funziona sullo 0, che è tanto figo perché è molto piccolo, ma funziona anche su tutti gli altri. Queste sono delle cose che mi piacciono, perché tutto quello che stiamo dicendo, a parte che tutti i programmi eccetera sono compilati per l'architettura ARM, però in generale va bene, può essere su qualsiasi scheda, cioè su qualsiasi anche computer. Ah, sì, va anche bene tipo sulla BeagleBoard, su va bene sul Banana PI, eccetera, sì. Ok, perfetto, quindi a questo punto direi che ci siamo. Sì, abbiamo un Raspberry funzionante. Ricordatevi che per accedere da remoto dovete abilitare l'SSH, per forza. E di default mi sa che non è abilitato. No, non lo è. L'ho scoperto perché il cliente SSH ci ha battuto il naso e ho dovuto poi farlo con la tastiera, quindi attivatelo subito. E poi vediamo un attimo come se Mario ci dai poi i link sul di come si disattivano le periferiche, okay, poi, inutili, così poi consuma di meno. Sono in realtà una serie di forum e blog in cui si parla poi solo di questo, ma anche per i Raspberry, diciamo quelli vecchi, perché sono stati più utilizzati. Come giustamente abbiamo detto, se ne c'è meno di Raspberry Zero, c'è meno roba. Io sto cercando documentazione sui punti di cui parlavamo, i punti di saldatura sotto, e ce n'è pochissima. Cioè io ho trovato un paio di blog che ne parlavano, e gente che prende, abbiamo insieme discusso, siamo riusciti ad arrivare un po' più di informazioni, equiparando le tabelle dei Raspberry B Plus per esempio con quella dello Zero, trovando alcune cose erano simili, però diciamo, la documentazione su queste cose ce n'è abbastanza pochina. Ok, quindi a questo punto è che mi chiedo, prego, perché ce ne sia così pochina, cioè perché mettere fuori una cosa non è sempre, tornando al discorso, l'abbiamo fatto in Inghilterra, noi siamo più bravi, bla bla bla, non preparare una documentazione, ma non dico estesissima, ma che almeno mi dica: guarda, questi pin servono a questo. Guarda, i pin, quelli ufficiali, sono tutti documentari, perché sono uguali a quelli vecchi. No, sì, quelli, ma... sì, certo, quelli, vabbè, sono uguali all'altro, ma non, sì, vabbè, esatto, non c'è niente da scoprire, ma... quelli dietro, sì, effettivamente, boh. Qualcosa di nuovo, dico, perché... Non lo so. Tra l'altro, ecco, tornando al discorso, non devi neanche documentare i pin che già ci sono, perché sono già documentati abbondantemente, visto che sono uguali agli altri, fai almeno un tot di documentazione sui pin nuovi che metti. Giusto, quindi solo la differenza e sarebbero stati tutti contenti. Hai ragione. E che caspita. Chiederemo, guarda. Chiederemo. In realtà forse vogliono fare una cosa: più sei segreto e più sei figo, una cosa del genere. Certo, non lo so, certo. Ma guardate, è quello che ha fatto Apple, secondo me, nei primi anni, dove non si trovava niente di documentazione, e il botto l'hanno fatto quando poi c'è stata della documentazione. Quindi o sei pubblico e hai documentato un sacco di roba e hai gente attiva, se no non sei nessuno, purtroppo. Lo so. Vabbè, speriamo che la cosa migliori un po' andando avanti. Io continuo a pensare, quando paciocco su queste schede, alle superiori. Io alle superiori lavoravo con la tecnologia che c'era, lo Z80. L'esame delle superiori, ho fatto un progetto disegnando una scheda montata sul bus, all'epoca c'era Risa, e parlando con l'86. Non c'era internet all'epoca, o almeno ce n'era molto poco. Io mi ricordo che sfogliavo manuali su manuali, e se non li avevo non sapevo niente. E chi li riviste? Tenete conto, ora che figata è, cioè infatti, compri la scheda, apri internet e hai tutto. Hai anche tutte le esperienze di tutte le persone. Per esempio, io ho scoperto che la mia scheda Wi-Fi, di default, se non la usi va in risparmio energetico. Questo significa che se tieni un ping attivo, allora il Raspberry è raggiungibile. Se non lo tieni attivo, ma conti fino a 10, e lui sparisce dalla rete senza più nessuna possibilità di farlo tornare su. Caspita. Ho trovato su un forum uno che dava un comando per togliere sta roba qui. Okay. Fossi stato all'epoca, io avrei preso la scheda e lasciata in un casetto, perché tanto non funziona. Sì, sì, certo. È questo che fa vincere. Il bello è sapere quel tizio lì come ha fatto a trovare il comando. Cioè, ha sbattuto, sai, la che testa. Non me lo sono chiesto, ed è una bellissima domanda. Cioè, ha sbattuto la testa fino alla morte, immagino. No, oppure... Ma no, ma magari gente che conosce approfonditamente Linux, perché poi è un'impostazione all'interno di un file di configurazione di Linux. Io lo conosco, ma Linux lo conosco al 15%. C'è gente che di Linux ti sa dire quale riga devi modificare, mettendo quale parametro in quale file a mente, cioè non è che lo deve andare a cercare. Quindi magari lui sapeva che c'è qualche cosa sullo standby dei dispositivi, ci ha provato e ci è riuscito. Certo. E quindi, vabbè, testing però con molta conoscenza dietro. Ma secondo me sì, secondo me scusate, per sfruttare a fondo Linux devi davvero davvero conoscerlo molto molto bene. Ecco, vabbè, perché è bello anche della Raspberry che ognuno può, diciamo, fare casini totali, alla fine tu cambi la schedina, anche se hai distrutto tutto, la riscrivi e ciao. quello è anche assolutamente. La Giuliano, scusa, stavi dicendo qualche cosa? No, dico, ecco perché io lo sfrutto così poco, non perché lo conosco poco. Ma guarda, sai cosa? L'altra volta tu ci hai parlato dell'ESP. Con l'ESP tu ci fai anche la pasta asciutta quasi. E, wireless. Giusto. Sì. Ma se tu metti tutte le conoscenze che hai dell'ESP, le sommi al fatto che magari conosci bene Linux, fai tutto quanto con il Raspberry e ne fai anche di più, perché ti accorgi che l'ESP consuma poco, va molto bene, ma ha un set di istruzioni molto molto piccolo, sì, nel suo piccolo. Sì, sì, ma Raspberry fa tutto quello che fa un PC con Linux. Assolutamente, ma infatti il discorso qual è? Che io il Raspberry lo vedo non bene, ma benissimo come unità centrale per la raccolta per esempio dei dati di vari sensori, ma lo trovo sprecato per avere una temperatura ogni mezz'ora. Ecco, questo è che è tra l'altro sai cosa, con però consumi eccetera eccetera, ecco. Però sai qual è il fatto? Io anche ci ho pensato a questa cosa. Il mio progetto di casa domotica parte da un Raspberry modello B, dentro cui ho il bot di Telegram, dentro cui voglio salvare tutte le letture, fare il serverino web con tutta l'interfaccia eccetera, e questo con l'ESP non penso che si possa fare, ma io conosco poco l'ESP. No. Il fatto è che se conosco bene il Raspberry e la scheda costa $5, perché devo diventare matto ad andare a studiarmi un altro dispositivo quando posso fare la stessa cosa, ovviamente sfruttando per l'1% di quello che può fare un Raspberry, perché il Raspberry metterlo a leggere una temperatura ogni 10 minuti è uno spreco, ma costa poco, è facile, perché non farlo? Ma tra l'altro il prezzo di cui parliamo, cioè del Raspberry in generale, sono d'accordo con voi, però per lo zero siamo arrivati ai livelli quasi dell'ESP come prezzi, se si trova. Va bene, ma poi ci devi mettere il fatto cioè gli accessori, no? Cioè sì. ci vorrai mettere una chiavetta per il wifi? Sì, hai ragione, però siamo sempre lì, cioè tutti gli accessori che mo ho comprato tramite i siti cinesi eccetera, sono arrivato a spendere solo chiavetta, adattatore, tipo $3 in più, quindi siamo sui $7. No, fai 8, perché mi pare sia $5 la base. Ok. In più ho comprato gli alimentatori USB che comunque ci vogliono anche sull'ESP. Diciamo intorno ai $10 mi sono più o meno fatto un oggetto completo. Poi ci metti i sensori eccetera. È di più. Però come diceva Francesco, secondo me c'hai molte possibilità, anche col fatto che è molto più versatile. Oh, cioè, ma io voglio, infatti sono d'accordo. Sì, ma sono diverse. Ma io vorrei trovare una applicazione dove mi occorre la potenza di un sistema operativo su un sensore. Ecco, in quel caso lì io sono d'accordissimo, perché probabilmente non la troverai mai, perché no, la lettura di un sensore è di una semplicità tale, anzi con il Raspberry la lettura di un sensore, se non è già un sensore particolare un quindi un po' più caro, è un casino della Madonna, perché devi metterci, o ti compri il sensore già digitale e quindi entri nel suo file di configurazione e leggi la temperatura, che è di una comodità bestiale, oppure ti devi mettere in mezzo un convertitore analogico digitale. Allora sì. Vabbè, ma il vantaggio è che la wifi è standard, il vantaggio è che il sistema operativo è standard, l'altro vantaggio è che magari riesci a monitorare con una sola scheda, metti tanti tipi, esatto, di sensori contemporaneamente. Avendo 40 GPIO puoi farci diverse cose. No. Io un esempio, quello che diceva Giuliano, ce l'avrei, e sono anche gli esempi con dei piccoli robottini. Cioè secondo me solo la lettura del sensore effettivamente è un po' troppo, cioè è troppo poco da fare per un oggetto con sistema operativo completo. Però se hai dei sensori e degli attuatori insieme, quindi tu hai un robot con visione, misurazione di distanza sonar eccetera, che con Raspberry gli fai fare anche l'utilizzo di attuatori, quindi piccoli motori eccetera, è un sistema completo per cui Raspberry Zero va benissimo, in cui lui può muoversi autonomamente in una stanza, per dire. Quindi questi sono piccoli esempi. Guarda, e su questo siamo completamente d'accordo. Cioè sicuramente io, nonostante ci siano in rete esempi di robottini fatti con l'ESP, ma io sono completamente d'accordo su questo, lo farei tranquillamente, non, o meglio, non lo farei con un ESP il robottino, ecco, però non so, è anche perché voglio dire, stiamo parlando di, allora, voi conoscete bene Linux, il Raspberry, eccetera eccetera, ma per leggere un sensore con l'ESP stiamo parlando di 4 righe di programma. E questo sì. 4 righe. E soprattutto aggiungerei a favore dell'ESP una cosa che non è da poco. L'ESP lo puoi mettere sul balcone con una batteria senza dover portare fili, alimentazione, alimentatori, eccetera. Da questo punto di vista l'ESP vince. Ma perché anche l'ESP lo puoi mettere in deep sleep e consuma 4-8 microampere e dopodiché per riavviarci ci mette un secondo e mezzo, in un secondo e mezzo fa la lettura, un secondo si rispegne, cioè cioè lo alimenti anche con un pannello solare da 4 centimetri quadri, cioè ci sono delle cose, ripeto, e secondo me è bisogna capire quali sono gli ambiti migliori per uno, quali migliori per l'altro, ecco. Esatto, cioè secondo me è inutile parlare in generale, cioè uno deve vedere qual è il suo bisogno, capire quali sono i suoi limiti, quindi o non ho alimentazione, usare una batteria, o ho bisogno di tempi estremamente veloci, o devo risparmiare il più possibile corrente perché è uno spreco tenerlo acceso, eccetera, a quel punto va bene. Poi se uno vuole tipo anche la versatilità di fare, non so, dare diversi script per la lettura, di cambiare io posso tirarmi, posso programmare sul mio computer, fare tutto in Git, per esempio su GitHub, e far tirare tutto giù dallo zero, da remoto, la mia SSH, senza bisogno di dover flashare cose, eccetera. So che si può fare anche una cosa del genere con l'ESP, è un pelo più complicato. Non è tanto più complicato. Ah no, andaggia. No, però tirare giù Git no, perché non è un sistema operativo vero sotto, no? No, quello no, certo, quello no. Per quello, per quello infatti usi un Raspberry e poi lo mandi agli infatti ESP. Guarda, se dovessi, secondo me la cosa generale è che per i nodi, cioè una cosa di cui sto pensando di applicare lo zero è quello di avere una serie, come diceva Francesco, la domotica, in cui c'è un server centrale che può essere quello che vuoi, anche un Raspberry, ma anche un computer, un NAS, e una serie di nodi stupidi che leggono solo sensori. Sì, per sì. Quello l'ESP è geniale. Sì, sì, sì, sì, sì. Però io lo farò, quando avrò gli zero lo farò con gli zero perché mi piace di più, quindi vabbè. Non mi convincerete mai. Cioè, però non mi state convincendo a comprarlo, dai, fate qualcosa in più. Te lo pago io. Allora va bene. Hai visto come faccio? Ok. No, allora se vuoi un tot di motivi per comprarli, comincia a cercare in giro la gente cosa ci ha fatto. Con lo zero ci sono dei progetti veramente belli, tipo ne ho visto uno che mi ha fatto morire. Hanno preso un vecchio televisore, lo hanno aperto, vecchio nel senso a CRT, lo hanno aperto, ci hanno messo dentro la scheda, perché tanto è talmente piccola che ci sta, ci hanno messo sopra l'emulatore di console e hanno fatto il televisore e lui la console. È bellissimo. Di quelli ne ho visti diversi, gente che ha messo lo zero nei tipo pad di Xbox. Nei pad, esatto. Sì. E tu attacchi, sì. Al posto che con l'USB, attacchi il televisore direttamente con l'HDMI. Che alimenta anche, tra l'altro. E hai la console, no, è bellissimo. Voi state toccando un nervo scoperto, e lo sapete. Visto? No, no, giochi, non va giochi. Bene così. tu hai chiesto e avrai, mi dispiace. No, però davvero, allora, secondo me se per esempio vai sul sito dove ti puoi scaricare MagPI, negli ultimi tre numeri, in ogni numero c'è almeno uno o due progetti fatti specificamente per lo zero. Lo zero ha un enorme vantaggio sui dispositivi che si muovono perché pesa molto poco. Aspetta, però però ci puoi fare... No, scusa? Scusa, ma a proposito del televisore, ma... lo zero ha anche l'uscita per il videocomposito come ce l'ha il B? No, c'è solo HDMI, però hanno fatto delle schedine per cui tramite il GPIO te lo puoi creare, diciamo, okay. Puoi tirartelo fuori, okay. Però c'è l'HDMI e basta. E tra l'altro vi dico, io ho provato a usare l'adattatore HDMI e VGA che c'avevo al contrario, quindi a tirar fuori l'HDMI e tirarlo nel VGA e non va. Beh, quindi, non funziona. Proviamo, che mi interessa. No. Vabbè. Già i convertitori da HDMI a VGA non tutti funzionano bene. Beh, ma tanto. Io sì. ne ho preso uno che per il Linux Day di ottobre scorso mi ha fatto diventare matto, perché a casa ha funzionato perfettamente, poi l'ho attaccato al proiettore lì al Linux Day e mancava il rosso. Ma il nervoso, guarda. Okay. A me il problema principale è stata l'alimentazione, anche per quelli, perché si succedeva talmente tanta roba dal HDMI che andava in pallone il Raspberry, ho dovuto alimentarlo esternamente. Ma infatti quelli lì nuovi hanno un cavetto USB, così ciucciano la corrente anche dalla USB. Io so quello esattamente. Ok, va bene, andiamo avanti perché stiamo come di nuovo fermando su vari punti così. Allora, un'altra cosa che dicevamo, questo qui è un altro punto che però si può fare anche con l'ESP, che avevo già detto all'inizio, tipo una cosa molto carina che puoi tirar giù, e anche alcuni progetti che ho visto, se andate su HDI, il sito dove ogni tanto prendo informazioni, c'è anche hdi.io dove si parla in genere di progetti, e questo mese insieme in collaborazione con Adafruit hanno cominciato a fare un contest su Raspberry Zero, che prima era il progetto più costruttivo, e ce ne sono vari in cui si utilizza Raspberry come, vabbè, sia per esempio come proxy Tor, ma anche come server web, e per far partire un server web sul Raspberry sono modi molto semplici. In generale lo puoi fare con Python, con una linea di codice, e poi sono anche un altro paio di progetti Python che producono dei server web abbastanza grossi, cioè diciamo più avanzati, che fanno varie cose. Oppure si può anche tranquillamente far girare una Apache o un Nginx, se non sbaglio sull'ESP si può anche fare, no? Far girare un server web, però è tutto programmato in Go, se non sbaglio, no? Ci puoi utilizzare sia NodeMCU, oppure puoi utilizzare anche Arduino, ma anche con l'SDK, se sei bravo in C, ma bravo, forte. Scrivere un server web in C, penso mi ammazzerei probabilmente. Devi essere molto bravo. Si può fare, sono d'accordo. Lo può fare anche in Assembler, volendo. Sì, ma anche in binario, guarda. Esatto, 1-1, vai. Ecco, non possiamo scendere più nel dettaglio perché più finito, giù del binario non c'è nulla. Potremmo fare intenzioni. No, potremmo progettarci noi il chip che fa solo da server web. Tra l'altro ne avevo visto uno una volta, tanti anni fa, era un server web che stava all'interno di un RJ45. È la miseria. Ricordatemi, che cos'è un RJ45? È il plug del cavo di rete. Quel progettino così che è tutto grande quanto l'attacco. Era grande come una femmina dell'RJ45. Sì. Dentro c'era un server web. Era bellissimo. Era un cubetto praticamente. Che fatto dalla femmina. Sì, figo. Me lo ricordo. Però ancora prima dell'avvento del Raspberry. Ovvio. Sì, è dell'ESP. L'avvento, sì, esatto. Un'altra cosetta utile che uno potrebbe sempre, per esempio, mettere, che so, ti metti in uno zero da qualche parte in casa nascosto, si può fare su un database, quindi si può far girare facilmente roba come SQLite, MySQL o MariaDB, eccetera. Quindi allora, MySQL ci ho provato, lasciate perdere. Dai, immagino. Davvero. No, MySQL per il Raspberry è veramente troppo troppo pesante. Hai provato MariaDB? No, ho solo messo il MySQL perché volevo vedere se riuscivo a fare un piccolo server lamp, ma è veramente pesante MySQL, in fatto di RAM e CPU, anche fermo è terribile. Che la cosa mi preoccupa, cioè, anche se non il mio progetto che oggi va un server web, cioè ci vuole un database, quindi... E allora, secondo me ci puoi mettere il SQLite. Il SQLite ha un problema solo, non gestisce molto bene, anzi per niente, le chiamate da più clienti diversi, cioè è un server, un esempio, SQLite è il motore di database dello storico delle pagine che visiti su Firefox, ma perché è all'interno di Firefox, esatto, quindi... Quindi se tu ti fai il tuo server web, che è l'unico che parla con il SQLite, funziona benissimo. Ma è quello che c'è anche su se Android, tu hai... no? SQLite. E SQLite dici? Non lo so. Mi ricordo. Non lo so proprio. Sì, mi sa di sì, no, c'hai ragione. Mi sa davvero di sì. E tra l'altro, sicuramente è leggerissimo e velocissimo. Non fateli fare però il database relazionale con 5 client che accedono via rete. Lì non funziona. No, ma il problema mi sa che non è. Se non mi ricordo male, qual era l'acronimo per i database? CRUD o ACID? Cioè il fatto che le transazioni devono essere atomiche, separate, in modo che vari client possono accedere separatamente, cioè insieme sulla stessa tabella e modificare contemporaneamente. Quindi sa che SQLite, essendo light, gli manca qualcosa dai server SQL più grossi. Sì, penso di sì, però così nel dettaglio non ci so scendere. Io tra l'altro per il progetto che sto facendo io, che poi vi illustrerò, stavo pensando di utilizzare un database che si chiama InfluxDB, che è basato su SQLite, a quanto ho capito. Quindi questa cosa mi riempie d'orrore. Vai a cercare nelle specifiche, perché se tu fai un server web ed è lui solo che interagisce con il SQL, funziona. Il problema qual è? Se tu devi accedere alle tabelle da un altro dispositivo, tipo okay, con il MySQL devi entrare sulla porta 338, o come no, la 389 è quella dell'RDP, e insomma sulla sua porta di rete, quello non ci riesce. Vabbè, quindi vabbè, l'idea mia è quello di far, vi spiego nel dettaglio se volete dopo. Comunque tutto deve essere gestito su un computer centrale, prende tramite Node-RED, e quello scrive solo lui nel database, quindi lui prenderà le varie chiamate e lo fa solo lui. Quindi, secondo me allora così funziona. Però farà, non lo so, vediamo, perché è un po' complessa. Prova. La cosa, proverò. Allora, stiamo parlando, ok, SQL eccetera. Quindi a questo punto vorrei farvi una panoramica su, diciamo, quello che abbiamo fatto fino adesso. Fondamentalmente è, per esempio, la lettura dei sensori, come si fa? Quindi come faccio io a mandare il segnale di un sensore, prendiamo uno solo, semplice, quello usato più o meno da tutti, un sensore di temperatura, quindi voglio leggere la temperatura della mia stanza, quali passi devo fare per mandare quel numero fino al cloud, oppure a un serverino che io ho, oppure salvarlo direttamente sul Raspberry che stiamo facendo girare, ok? Innanzitutto dipende da quale sensore. Io ne ho ordinato uno sempre dagli amici dietro l'angolo e digitale, lo attacchi su uno dei GPIO. Ora mi devo studiare bene come, quando mi arriva. Ma quello lì Adafruit per caso? Non so se deve essere lui. BC qualcosa. Sì, lui. Ok. Praticamente tu entri all'interno di un file che è una periferica montata come se fosse un disco e fai il cut del file e hai la temperatura. Esatto, finito. Quello... Ed è una figata pazzesca. Però ma io tra l'altro ne avevo visti... Cioè io prego, prego. No, dicevo, è limitante un po' questa cosa. Perché? Fa comodissimo. No, è limitante nel senso di quali sensori poter usare così velocemente. Ma guarda... Insomma. Sì, è limitante. Il problema è che non c'ha ingressi analogici, fondamentalmente. Quindi, o come dicevamo, o ti ordini un paio di ADC, come io ho fatto tramite sempre dei nostri amici orientali, e me ne arriveranno diversi. L'ho presi alcuni a varie risoluzioni. Ne ho presi, per dirvi, uno che ho preso base che si potrebbe usare è un ADC a 10 bit o 16 bit di soluzione a 4 canali. Quindi lui ci attacchi lì dentro almeno quattro dispositivi analogici e lui te li legge lui tranquillamente. Sì, sono lo stesso che ho preso io. Esatto. E poi com'è che lo colleghi al Raspberry sulla porta seriale? No, I2C sono su due, devi usare se non sbaglio tre, Giuliano ricordami tu che me l'hai parlato, devi usare tre pin se non sbaglio per controllare allora, I2C. Se è I2C se ne usano sì tre, nel senso che uno per i dati e due per l'alimentazione. Sì. Ok, e poi se ne vuoi aggiungere, poi l'altro puoi aggiungerne anche in cascata perché è un bus che permette di aggiungerne di più attaccando sullo stesso oggetto I2C vari oggetti, quindi comunicano poi direttamente su quelle stesse tre porte. A quel punto credo che bisogna usare quattro fili allora. Sì, perché poi ce ne vuole uno in più per distinguere i vari sensori che si mandano l'identificativo. Poi diciamo con quattro pin puoi avere una cascata di oggetti e tutti questi oggetti sono degli ADC, ognuno può attaccare i vari sensori. Non so poi come nell'interno di un ADC su I2C come distinguere i vari sensori, poi là va vista poi il singolo oggetto specifico. Però per dirvi, io l'ho pagato un ADC del genere $2, $2.50. Quindi non stiamo parlando di cifre assurde. No, infatti lì ci siamo, anzi. Esatto, stavo vedendo un attimo, forse quello che dicevi tu Francesco è per caso OMCP o robe del genere, sai che non me lo ricordo. È un piccolo PCB colorato fondamentalmente con un microsensore. No, alla forma di un transistor, sai quelli okay. lì che sono dei cilindri ma spaccati allora sono, due? Allora il famoso, il Dallas, sono quelli lì DS-180. Qualcosa. Esatto. Sì, esatto, sì, deve essere okay. lui, deve essere lui. E di quelli volevo anche, li avevo messi in scaletta perché quello diciamo utilizzato dai straccioni tipo me è il famoso DHT11O e il 22 l'altro, quello più figo. Straccione dei ricchi. A chi? Non capisco. A me. Sì, perché non costa nulla praticamente. Però il problema è quanto ho letto, io l'avevo già usato un paio di volte. Tu c'hai i 22 se non sbaglio, Giuliano? No, 11, no, ho quello dei anche poveri. Di esatto, siamo tutti insieme in questa barca. Però per leggerli sulle uscite digitali, cioè in realtà utilizzo il protocollo OneWire che dovrebbe essere standard, però per leggere su Raspberry è un po' un casino. Tipo Adafruit mette a disposizione una serie di driver per leggere tramite Python, però come leggevo giustamente una cosa che mi era capitata, e loro dicono ma questo è il problema, diciamo il destino di leggere queste robe hardware con Linux, è che il 75% delle volte ti arriva una lettura, le altre arrivano cose a caso. No, vabbè, ottimo, dai. Mi è capitato. Beh, giuro. Se scopri cos'è quella cosa a caso, puoi farci il parsing e la no, ignori. Il problema è che loro non sono sicuri, dando diciamo delle chiamate all'hardware direttamente, che il sistema in quel momento sia disposto a rispondere alla tua chiamata, quindi lui può fare altre robe. Quindi quando arriva la richiesta di una lettura in quello specifico bus, eccetera, lui probabilmente è occupato e ti tira via della roba a cazzo, rumore fondamentalmente. Quindi diciamo una su quattro chiamate sono da buttare. E a me capitava. Beh, tu ne fai quattro, fai la, sì. Fai la media. Ma tieni conto che la lettura com'è di sta roba a me andava abbastanza piano, ci metteva un paio di secondi a leggerlo. Beh, sì, ma su una temperatura tu sì, non hai bisogno no, di leggerlo sì. No, dieci volte al no, minuto. No, ma è proprio il sensore che è lento. È lento. Sì, sì, sì, è lento. Lento. Ma lì per è dirvi, vero. Io ho fatto il monitoring di casa. Altro questo qui, il DHT11 legge temperatura e umidità. Io ho fatto il monitor di casa mia di temperatura e umidità e leggevo una volta ogni 10 minuti, perché dopo 2-3 settimane cominciavano un pacco di dati assurdo. È vero. E mo sto pensando di fargli fare la lettura, di fargli ripetere finché non mi dà un numero che ha senso. Quindi di leggerlo, se mi tira fuori pattume, lo cestino e la faccio rifare. Quindi se alla sì, fine... devi solo definire bene esatto, cos'è il pattume. Qual è il pattume, perché... Cioè, puoi anche fare che sai che a casa tua la temperatura oscillerà sempre tra 15 e 28 gradi. Se è fuori da quel range, ma quella volta lì che ti si scassa il riscaldamento, il 10 esatto, gennaio, lo perdi. E hai davvero 7 gradi in casa, non lo, no, non lo puoi leggere. Non ti vorrei dire una cavolata, però se non sbaglio il pattume che lui caccia fuori sono proprio cose a caso. Cioè, sono proprio robe asci a cavolo, lettere a minchia. Beh, allora lì è abbastanza semplice esatto, fare il parsing, se sono delle cifre, allora lo usi, se no no. Quello non d'accordo. Mi è mai capitato, che abbia letture un po' strane, sì, mi è capitato anche fuori dal range, proprio leggere 100 ah, sì. gradi, sì, quello che mi capita. Però vabbè, quello puoi no, farti uno cose, storico. Diciamo, a caratteri, no, quello no. Quello no, ok, allora è un problema forse del mio. Ma ne ho presi un po', quindi penso che ne attaccherò tipo 4-5, più li leggo in parallelo, e di quelli uno mi andrà di culo che mi ha cercato una buona. Faccio una media. No, sai cosa? Devi. Cioè, se ne metti quattro, usi la temperatura che hai su almeno tre di questi sì, qua. Basta, con un certo range, perché tanto sì. ci saranno delle tolleranze. Basta fare un po' di aritmetica nello script e quindi via. Sì, infatti. Comunque, io allora devo essere sincero: i sensori di tipo. Analogico sono un po' più precisi, anche se un po' più complessi da gestire. Tipo con Arduino io ho fatto dei test con degli analogici, è difficile che ti sballino così la lettura, perché lì è una lettura di una tensione, buon finito. Sì, ma alla fine il lettore di questi cui stiamo parlando, di sensori digitali, hanno un ADC dentro fondamentalmente con un certo non è altro che visto che riescono a fare tutto quanto molto piccolo in un pezzetto solo, mettere anche un convertitore. Però tieni conto che ti dicevo, se tu un ADC diciamo decente lo paghi un paio di dollari, tu paghi un sensore un paio di dollari con l'ADC dentro, farà cagare qualcosa lì dentro e l'ADC non sarà proprio il massimo, immagino. Ma tieni conto che però nell'ADC devi contare lo chassis, devi contare sì, il pinout, eccetera. Secondo me comunque se tu hai a un paio di dollari una DC con un sensore dentro e separati ti costano $3 più tutta la parte di configurazione, cavi di qua di là, ti conviene comunque prenderlo tutto insieme. Ok. Ci metti meno a studiarti tutto il sistema per non fare per scartare le letture fasulle. Lo so, però non è così divertente. Vabbè. Beh, comunque Mario, alla fine dei conti ti manca il BMP 180, dai. Esatto, fammelo scrivere perché non mi ricordo esattamente cosa mi mancava. Chi è il BMP 180? È il lettore, è il sensore di temperatura digitale o di umidità? No, è quello che fa temperatura e pressione atmosferica. Ah, giusto. Ed è molto preciso. Bravo. Quello, perché io l'ho confrontato con il DHT e non c'è storia. Ma è digitale pure sì, lui? Sì, sì, sempre, guarda, esattamente. Ma mi sa che io ne ho uno buttato da qualche parte, no? Scusami. Oh, però fa 10 dollari, eh? Dove? Ma dipende dove lo prendi, dipende dagli amici, dai. Dagli amici nostri. Tu sbagli. Ho aperto il primo link che mi ha dato Google, è quello di Ada. Ovvio, ma il primo link che mi esce su AliExpress è $1.10. Ok, a posto, va bene. Hai visto dove sbagli candeggio tu? Non... Niente, secondo me noi ora dovremmo contattare i signori di AliExpress e farci sponsorizzare le puntate. Tu non hai idea delle dimensioni di mi sono letto un po' di robe su AliExpress, chi c'è dietro, non hai proprio idea delle dimensioni mondiale di questa gente, cioè. Beh, ma scusa, noi stiamo parlando soltanto di dispositivi elettronici, sì. Ma tu hai sfogliato il catalogo? Sì, sì, vendono tutto, penso anche le balene, cioè, fritte. Tu ti sì, puoi sì. Comprare i mattoni per farti la casa, il cemento, i tubi, i cavi per tutti gli impianti, i mobili e i vestiti da metterci e dentro. I cinesi che vengono a costruirtela, tra l'altro. Secondo me anche, sì, sì, sì. Sicuro. Ma te li mandano impacchettati? Il problema è che la casa la costruisci dopo 6 anni, perché deve arrivarti tutto. Vabbè. No, dopo 2 mesi, dai, penso che ti riescono a mandare tutto. Se non ti lo fermano la dogana. Esatto. Cos'è questa casa? Quanto vale? Io ho controllato dalle mie mail, ne ho comprato uno su eBay, ce l'ho da qualche parte buttato, ce n'ho un BMP. Quindi lo userò. È bellino, bellino. Ok, allora andiamo un attimo avanti perché siamo di nuovo arrivati. Tenete conto che la puntata doveva essere di circa un'ora e siamo a metà della scaletta. Comunque, allora, comunque abbiamo detto, leggere i dati, quindi io utilizzerei, diciamo, sul Raspberry ho sempre usato scriptini in Python, poi potete usare i linguaggi che volete, installate il compilatore e via. Attualmente sto usando degli scriptini bash per salvare un paio di parametri. Salvatevi la roba, quindi o la scrivete, come diciamo, in un piccolo database, quindi SQLite o quello che volete, o in un file CSV per poterci accedere poi dall'esterno e poter fare analisi. Ti aggiungo una cosa che è interessante: ci sono per il Python le librerie per scrivere sui datasheet di Google direttamente. Ah sì, l'avevo vista questa cosa, però. Quindi se volete scrivere nel cloud su un datasheet che volete poi guardare, farvi i grafici a mano, funziona benissimo. Su sta cosa però ti devo bacchettare, nel senso, io questa opzione io ho fatto un primo mio modulo utilizzando un DHT11 che leggeva i dati, quindi leggeva temperatura e umidità e mandava la roba a un servizio che si chiama Plotly, che è semplicemente una libreria per plottare dati in Python, però anche in un servizio cloud in cui tu puoi fare plot anche in remoto. In realtà è comodo, è bello e tutto, però quella volta che la tua rete va giù tu perdi tutti i dati, a meno che non ti fai un sistema ridondante. Beh no, ti devi fare tu il tuo sistema, però poi no. No, scusami se divago, ma io lavoro in un posto dove sul server centrale arrivano gli ordini da 200 PC di periferia. Noi abbiamo il sistema che se va giù la connessione, l'ordine resta in tampone o nel negozio di periferia o nel server temporaneo di sede. Cioè, se tu hai la necessità di parlare con un sistema esterno, devi assolutamente pensare che internet non c'è sempre al 100%, sono quindi d'accordo. te lo devi gestire, ovviamente. Ma questo è perché tu lo fai per lavoro, però a casa mia non mi metto a fare un sistema ridondante che salva poi manda no, i dati. No, ma secondo me se tu fai il sistema che scrive sulle API di Google, se ti torna un errore, non hai cancellato già il dato, ma l'ho iscritto da un'altra parte. Il problema poi sarà quando le API di Google sono di nuovo disponibili, devo andare a vedere quali dati non ho tirato su, quindi poi devo aggiornare. Ah, beh, certo, sì, sì, è un problema assolutamente di logica e di, esatto, e di gestione, che ti porta via del tempo di sviluppo. La mia idea è quella di far mettermi un Raspberry Pi 2 in locale nella mia rete, che comunica con i nodi e fa tutto lì. E ciò, e lui, se... Ah, beh, sì, è. Così se c'è internet, se non c'è internet, comunque, esatto, lui funziona e fa tutto, esatto, quello che deve. Poi mi metto un accesso in NAT tramite il router al Raspberry, in modo che posso vedermi i grafici da fuori quando c'ho la rete, e basta. Sì, sì, ma sì. Tra l'altro io all'inizio, quando avevo un Arduino, utilizzavo un servizio che si chiama Pashub, che tra l'altro ha anche cambiato nome, e se non sbaglio hanno cambiato completamente servizio. Cioè hanno cambiato tipo di servizio, prima era gratis e poi nel tempo sono evoluti, è diventato a pagamento e ciao. Quindi tutti i miei dati che avevo caricato lì sono andati. Cosa che non si capisce. Tieni anche conto che allora io sulla faccenda di Google so che funziona, perché ho il piano a pagamento e quindi funzionerà, appunto. Quello che può non funzionare è che a un certo punto fanno come ha fatto Twitter, cambiano le API e, esatto, devi mettere le mani sul software. Perfetto. Ovviamente se ti appoggi a un servizio esterno devi metterlo in conto. Esatto, queste maledette API, mannaggia. È la stessa cosa che io ho fatto con il mio bot di Telegram. Se dovessero cambiare le API, io comunque sono dipendente da due sistemi, dalle API di Telegram e dalle librerie di Python che io uso per parlare con le API, esatto, di Telegram. Esatto, quindi c'è due punti di failure fantastici. Due punti di possibile modifica e non funzionamento del sistema, sì, assolutamente. Però di contro ho il vantaggio che non ho nessun NAT che entra nella mia rete. Beh, diciamo, alla fine tu tiri via tutto quello che dovresti fare tu su server esterni, quindi si vedono loro di tenere sui server, di tenere cose attive, però esatto, deleghi, esatto, un po' della tua libertà e di flessibilità. Assolutamente, esatto, sì, che è tutti quelli che fanno quando danno nel cloud, però di molti servizi ormai ci si fida. Tu pensa che ho letto giusto ieri che Netflix ha spento il suo ultimo data center di proprietà, ha detto Amazon pensaci tu. Che Amazon comunque con il servizio cloud S3 se ne stanno facendo i strani. E se Netflix si fida, e Netflix ha una quantità di banda che gira che la metà basta, direi che di Amazon ci si può fidare. Guarda, visto che in America, scusami, no, dicevo, prego. Amazon, sì, Netflix si fida di Amazon, ma si fida di più di Akamai, perché li fa da proxy, quindi pensa tu. Ma si fida di entrambi. Tra l'altro io ho sentito un po' di cose su Akamai e mi è rimasto, cioè ci sono rimasto male. Akamai gestisce tipo l'80% del traffico del, sì, mondo. È impressionante. È una roba pazzesca. Se non erro, Akamai, quello che non gestisce come traffico pesante è solo il traffico del porno, perché come loro policy non accettano porno. Finito. Hanno perso veramente un quarto del mercato mondiale. Ma forse che di più. Sì, di più. Comunque stavo vedendo questo articolo una cosa che avevo letto l'anno scorso. Comunque Netflix utilizza... Aspetta, questa era tutta la banda mondiale, quindi il 37% della banda utilizzata su internet è Netflix. Ma quando? E l'anno scorso, se non sbaglio, l'avevo sentito. Ecco, tieni conto che dal mese scorso Netflix ha aperto a tutto il mondo. Quindi si succedono metà della banda internet del mondo. Secondo me sì. Figurati. E tra l'altro non scatta mai sto maledetto. Ci ho provato a metterlo in Ma tu in la fibra, eh? Come no, minimo. Oh, sì, io ho i 30 mega, grazie, ma ho provato a scaricare via torrent 3 ISO di Ubuntu contemporaneamente. E lui rideva. Mentre guardavo un film, nessun problema. Ti ha chiamato il signor Netflix ridendo. Solo questo. Vabbè, okay. Abbiamo fatto la divagazione solita. Ok, andiamo avanti. Quindi diciamo, un esempio, come dicevo io, è quello avere su un server locale. Quindi fai un tuo serverino che può essere... un RP, cioè un Raspberry, o questa gente che ha usato dei vecchi Mac mini che teneva, ma potessi utilizzare anche un NAS, basta che riesci a far girare qualcosa che vuoi tu e ti salvi la roba lì. In cloud, per esempio, l'esempio di Francesco è da CT Google, che poi effettivamente posso dirti che sono comodi, se poi puoi analizzare i dati un po' a mano. Altri oggetti che ho utilizzato un po' è tipo, ho scoperto che Adafruit ha anche un sito che si chiama ioadafruit.com, dove tu puoi costruire le piccole dashboard con dei dati di sensori. Ne ho fatta una mia che linkerò, che sta tirando giù i dati del Raspberry Zero esattamente, però sono i dati interni, quindi il carico di CPU, la temperatura del processore eccetera, per provare. Ho provato anche altra roba, tipo questo Freeboard che ho provato a tirare su. Ho trovato anche altre robe come ThinkSpeak, che mi aveva ricordato Giuliano, che è fatto da quelli stessi che fanno MATLAB, tra l'altro. E anche IBM, un servizio che si chiama Bluemix, che è un servizio di Blue Computing che viene utilizzato anche per fare prottare e raccogliere dati. Però tutti questi sono tutti a pagamento. Cioè, se tu non paghi, il servizio di base perde quasi niente. Quindi... il fatto è che ci siamo accorti che non può essere tutto gratis su internet, perché in molti casi tu paghi con i tuoi dati, ma per esempio dei tuoi dati di temperatura non se ne fa niente nessuno. Però come, guarda... E quindi devi pagare per il server. Sai qual è un'altra alternativa che potrebbe essere buona se vuoi avere la sicurezza del dato fuori e che non costa una follia? Ti prendi tu un server in cloud. Vabbè, sì, una VP, una VPS, una roba così. Per esempio, quelle base di Amazon costano veramente, veramente poco. Amazon va a traffico, è quello il problema, tanto. Beh, ma quanto sì, traffico sì. Pochi pensi kilobyte l'anno di, fare, di sì. generare a scrivere dei dati? Beh, guarda che io ho con mio fratello una VPS, scusami, prego Giuliano. No, dicevo, i conti si fanno in fretta, non cioè... Ma in realtà, guarda che vedere... avevo letto su vari siti, capire quanto ti costa Amazon è una specie di alchimia, perché non è tutto no, chiarissimo. Capire quanto ti costa Amazon lo capisci quando ti arriva la fattura. Sì, dico prima però, prima di perdere mutande. No, prima non è possibile, ma io ho fatto un po' di test, prove, conti con Amazon, niente. Con quelli di Google, con quelli di Microsoft e... La complessità è una roba pazzesca, ma perché banalmente tu non sai la tua applicazione quanto traffico genera. Cioè tu immagina di fare un sito qualunque su una piattaforma standard e immagina di mettere su un Joomla. Esatto, sì. Per un sito. Quanto pesa una pagina di Joomla? Quante persone la visitano? Quante persone fanno proxy? Perché che... se quella pagina è visitata da 10 persone della stessa azienda, sì, e c'è il proxy, è uno praticamente, sì. È solo uno, non puoi saperlo. Ma guarda è una che roba in realtà questo è sempre come tutto, tu dovresti prima farti, dovresti avere una tua esperienza su questa roba e una statistica. Adesso so, i miei siti li visitano tot persone circa, quindi io so ma tot persone, quanto traffico è quel tot persone? Lo devi avere statistiche precise, se non ce l'hai devi andare un po' attentoni e sperare che non ti brucino la casa, perché se sfiori troppe la larghezza di banda eccetera con Amazon ti fanno pagare caro e amaro. Ma su Amazon sono molto molto chiari, loro sì, ti fanno so. Pagare per ogni mega che esatto, che, però che tu passa. Non sai da prima quanta, cioè se tu fai un post su, non so, che diventa molto dibattuto e letto su Facebook e poi hai migliaia di accessi o centinaia di migliaia, le cose cominciano a salire di molto e non lo puoi assolutamente controllare. Sì, esatto. non è così semplice. Poi ovviamente hai l'enorme vantaggio che se tu hai il tuo sitarello su Aruba e fai 10.500 accessi in un giorno solo, il sito si incarta, esatto. E Aruba ti dice, senti, adesso basta. Se lo fai su Amazon, che ne hai 10.000, che ne hai 10 milioni, il sito c'è. Però lo paghi. Cambia poi a fine mese che la fattura, okay. Non è 20 euro ma è 250, cioè è così. Comunque io ho con mio fratello una VPS in Lussemburgo adesso, che paghiamo una roba come 10 euro l'anno, condomini e tutto, e in realtà è una Debian abbastanza scarsa, di 200 mega di RAM, qualche giga, una decina di giga mi sa, forse un po' di più. Comunque diciamo a dimensioni medio-basse, prestazioni medio-basse, però il suo porco lavoro lo fa. Io poi le statistiche del scaricamento del nostro podcast le faccio da lì. C'è un piccolissimo programmino Python che tira giù i dati da archive, li processa e mi crea dei file CSV disponibili in rete. Io poi quelli mi ricuccio da programmi per fare visualizzazioni. Per cose base va benissimo, però ovviamente tu, come dicevi tu Francesco, se scali e hai bisogno di cose con affidabilità, devi stare sempre online, devi pagarlo, c'è poco da fare. No, ma non c'è niente da fare, tra l'altro paghi anche molto molto caro, perché comunque non sembra, il cloud è economico, nel senso che andare a prendere una macchina fisica a noleggio da Aruba costa carissima. Ma ovvio. Se tu ti fai la VPS oppure ti fai il tuo server su Google e non costa carissimo, anzi se a te serve solo scrivere dei dati non ti prendi neanche la macchina virtuale, no, basta ti pigli il servizio di database e sei a posto. Guarda che per me a Ruba non è mai piaciuto, comunque poi c'è gente che... No, ma era un, sì. Un hosting provider qualunque, anche qua nel torinese ce ne sono un sacco che hanno fatto dei data center seri, tu vai con il tuo server, gli chiedi lo spazio rack, la corrente e la banda, ma non costa meno di 1500 euro all'anno, eh. Ok, minchia, ok. Vabbè, allora, è veramente caro e quindi devi capire... Cosa Scusate. Vuoi fare? Per esempio, se vuoi solo salvarti dei dati, tu hai il tuo sito, ti fai uno scriptino in PHP che quando si apre quella pagina lì salva il dato che gli passi, finito. Non hai neanche bisogno della macchina virtuale, un hosting condiviso. Ok, perfetto. Detto ciò, andiamo ai punti successivi, che siamo riusciti a non allungarci. Allora, io ho visto ed è divertentissimo il canale YouTube di questo tal Frederick Van den Bosch, o come si chiama, vi mettiamo il link che è più facile, che con il PI Zero fa il mondo, è veramente bravo. Ho visto delle casse AirPlay fighissime. Non ci andrò mai. Vai, fallo. E poi un'ultima domanda che mi sono posto io: vale la pena spendere $5 per questa scheda e metterci i codi sopra? Guarda, secondo voi? Per provarlo sì, perché ho letto che in realtà riesce a tirar su un video abbastanza decente. Per $5 provare no. Ma ce la fa? Io è questo che mi sono chiesto. Io non perché l'ho provato. L'enorme vantaggio, sapete qual è? Io ho comprato il Chromecast per la televisione. E beh, allora, che domande fai? Il Chromecast si alimenta con un cavetto USB. Lo alimento dalla porta USB del televisore. Quindi io accendo il televisore, si accende il Chromecast, ho l'HDMI che finisce dentro la televisione e lo uso. Si può fare, secondo voi, la stessa cosa con il PI Zero? Guarda, io sto leggendo un po' adesso mentre ne parlavamo, che ha le stesse prestazioni dei primi Raspberry, e dato che io utilizzo un Raspberry B di prima generazione come mio media center normale con codi ultima generazione, a questo punto direi di sì. Quindi se è allora, cosa comoda è che è talmente piccolo che lo appiccichi dietro alla TV e non si vede lo niente. Lo fai alimentare. Vabbè, a me è uguale. Io ho fatto un PCB, l'ho tagliato e l'ho avvitato dietro la televisione con avvitato sui Raspberry, e a me non si vede nulla. È dietro nascosto. E funziona alla grande. Cioè, io faccio video in Full HD a 1080p tranquillamente. Bene, allora può essere un'altra cosa per spendere poco e smartizzare. Beh, io ci metterei un P2, un B2 a questo punto, visto che rispendi 30, 40 euro e via. Ma sì. Un B2 cioè? Cioè Raspberry P2 e Raspberry P2. L'ultimo modello, esatto, insomma. Esatto, perché a questo punto c'è un quad core, c'è un po' più di USB. Io penso che il problema forse di Kodi è che se vuoi vedere un Full HD sul wifi non ce la fai sempre. No, devi essere... Aspetta, in che senso? Tu attacchi con l'HDMI sulla televisione? O in che... Sì, ma lo stream del video lo fai via wifi. No, io faccio via cavo, non sia mai. Allora con lo zero non, non puoi. Vabbè, a questo punto ci metti un hub... Ci sono anche degli hub Ethernet, USB con Ethernet integrato, trovati. Ma ce la fa? C'ha sempre le stesse limitazioni dell'Ethernet su USB che c'aveva l'1, quindi a me ce la sì, fa. Sì, però a me ce la fa. Oddio, ha molta carica, più banda. Dipende anche dalla tua rete. Io vedo abbastanza... vabbè, c'ha dei problemini se devi fare streaming. In realtà se vedo dei Full HD locale sul NAS che ho qui, sì. In streaming, se vedi un po' di fatica e dolore. Diciamo che se vuoi fare le cose che funzionano, ci attacchi un hard disk e ci scarichi, esatto, sopra i tuoi video che sei visto. Vabbè, io ho un NAS attaccato a fianco dello stesso router che fa solo quello, e quindi sì, benissimo. Sai, vero che alla fine di questa puntata ci arresteranno? Io non ho niente, un NAS pieno di roba legale, ho detto che... Ma tanto io sto all'estero, quindi ciao, divertite. Ottimo, vi dirò poi qual è il carcere. Non mi troverete mai, va bene. Detto ciò, se non avete niente da aggiungere, io andrei a una cosa che i nostri ascoltatori tengono molto, C'avete qualche punto da aggiungere, Giuliano? No, direi che sullo zero abbiamo sistemato, vediamo, ovviamente chiediamo agli ascoltatori se hanno avuto altre esperienze, se esatto. ce le hanno avute, raccontatecele. Okay. Magari possiamo anche fare che invitarvi esatto. in puntata per raccontarle. Chi vuole abbiamo parlarne? Solo almeno qualche vincolo tecnico, nel senso dovete avere un microfono buono esatto. e dovete potervi registrare la traccia sul PC. Esatto, poi fatto per quello. Il resto, se volete chiacchierare, fatevi avanti. In particolare esperienze con la parte grafica, perché io te l'ho detto, lo uso solamente se tramite SSH, quindi io non ho proprio anche idea. Io. Ok. Comunque, per ritornare in tema, una cosa che avevamo inaugurato il mese scorso è stato quello del nostro contest su Raspberry Zero, quindi noi avevamo messo all'interno della vecchia puntata alcuni indizi da cercare per riuscire ad arrivare alla soluzione del nostro mistero e poter vincere un Raspberry. Quindi in questa sede possiamo annunciare che il vincitore di questo contest è stato il buon Roberto Sartori. Tra l'altro devo dire che lui mi ha scritto, cioè ha scritto alla mail nascosta, segreta, criptata, dopo tipo un'ora e mezza dopo che abbiamo messo sulla puntata, quindi è riuscito. Sì, e ci ha anche scritto, ma l'aggregatore di podcast me l'ha detto tardi, esatto. Se no io ci sarei arrivato anche prima. Era lì come un falco. Comunque adesso vi spiego più o meno lui come ha fatto e come abbiamo pensato noi la cosa. Fondamentalmente nella puntata vecchia abbiamo messo un tag MP3 custom, quindi l'avesse potuto vedere solo con programmi appositi, quindi tipo iTunes non l'avrebbe mostrato, che portava una pagina non linkata, questo sì e no, una pagina nascosta sul nostro sito. In quella pagina nascosta c'era nel sorgente commentato in HTML l'indirizzo di mail a cui mandare la mail, e quindi vedendo il timing delle varie mail che sono arrivate abbiamo potuto decidere chi ha vinto. La mail tra l'altro era codificata in esadecimale, quindi non era in chiaro, quindi è stato abbastanza complicato. Il buon Roberto tra l'altro è riuscito a trovare il tag vedendo all'interno del file JSON che viene generato da Archive quando tu gli uploadi tutta la roba, perché lui poi mette in chiaro tutte le tag, quindi è stato un'ottima pensata, è stato bravo, geniale e veloce. Tra l'altro dice che si è molto divertito, noi siamo contenti di aver fatto una cosa divertente e che gli ha fruttato un ottimo Raspberry. Quindi Roberto, ti invitiamo poi a riscriverci per mandarci il tuo indirizzo specifico in cui rispediremo il Raspberry con tutti gli adattatori, e ti mando anche un po' di cosine cinesi che mi sono arrivate, quindi degli header in più, qualche adattatore micro USB, USB, eccetera, tanto ne ho pacchi che mi avanzano. Io lo invidio e ti invitiamo molto. Come? Io lo invidio molto. Tu non potevi partecipare, mi dispiace per no, te. No, lui non poteva partecipare. Vedi? Perché chi partecipa al podcast è esentato da questi concorsi. Quindi ti mando questa roba e quindi ti invitiamo a... Poi quando fai qualche esperienza, se vuoi venire in trasmissione a parlarci della tua esperienza, come anche poi la roba della caccia al tesoro e di cosa farai e di cosa vuoi fare o cosa hai fatto in quel momento col Raspberry Zero che ti manderemo. Non brandizzato purtroppo, perché ancora non ci siamo arrivati però. Io aggiungerei un piccolo dettaglio: se voi vi compraste le cose su Amazon con i nostri giusto. Codici, noi avremo qualche soldino extra per comprare qualcun altro di questi premi e divertirci anche noi, perché ci siamo divertiti noi a farlo questa specie di giochino, magari un po' più difficile, così non ci mettete 14 minuti per arrivare al premio. E possiamo farlo in qualche altra puntata, quindi se comprate qualche cosa su Amazon passate dai nostri link. Ok, perfetto, quindi direi che per oggi abbiamo davvero davvero, come dire, sbordato dagli orari che ci eravamo prefissati. Vabbè, dovevamo fare un'ora e 22, non è neanche il 50% esatto. in più. Quindi... E volevo solo dire l'ultima cosa, l'ultima novità che abbiamo pensato io e Mario, visto che un po' di community si è formata ed è una community che chiede informazioni, scambia informazioni su queste cose, schede e robe simili. Avevamo provato con IRC, ma IRC ha il problema che è molto volatile. Andare a cercare una cosa vecchia è praticamente impossibile. Visto che noi sperimentiamo, visto che abbiamo il sito su GitHub, abbiamo pensato di aprire un repository nuovo, che è github.com/gcookies/gtalks. all'interno del quale potete aprire delle issue e discutere di queste cose qua, così resta la parte storica. Infatti, quindi se qualcuno ha qualche problema con Raspberry, con una cosa qualsiasi, e qualcun altro dà una soluzione, rimane lì, possiamo documentarla poi facendo delle pagine nel repository, eccetera. Resta interessante, e GitHub è gratuito per tutti, basta che vi registrate, e al posto di comprare un dominio, mettere su un forum, eccetera, ci pareva una soluzione buona. Poi GitHub è lo strumento giusto dei nerd, e noi quello siamo. immagino che tutti avranno già un account, eccetera, quindi non c'è manco bisogno. Sì. Okay. Quindi se volete cominciare a chiacchierare lì, noi ogni tanto passiamo e guardiamo, rispondiamo, eccetera. Ok, ottimo, quindi con questo diciamo abbiamo concluso tutto, quindi a questo punto vi darò i nostri contatti tipici. Quindi noi ci trovate come sempre su Twitter all'account at geekcookiecast, la nostra mail è geekcookiespodcast@gmail.com, il sito, come Francesco ha ricordato, è su GitHub, quindi è geekcookies.github.io. ci trovate anche sulla nostra pagina Facebook cercando geekcookies o geekcookiescast. Abbiamo anche la nostra community su Google Plus, che è abbastanza attiva, in cui trovate cose interessanti, basta che cercate Geek Cookies Podcast, o anche l'utente Geek Cookies, troverete anche il link alla community. A noi ci trovate sempre il nostro podcast sia tramite feed RSS puro o su iTunes o Stitcher. E dato che, come sempre, ci fa sempre comodo avere un po' di recensioni, se vi piace questa puntata, se vi sono piaciute quelle passate, dateci un po' di stelle di recensione, che ci aiuta a diventare sempre più ascoltati, aumentare il nostro giro di contatti e fare anche nuove cose più interessanti. A questo punto direi che rimane solo il link affiliate, abbiamo già detto, se compare tramite i nostri link ci arrivano un po' di soldini per voi a gratis e ci aiutano a fare cose interessanti come queste caccia al tesoro, regalarvi cose e compare cose per migliorare la nostra qualità. E la sigla che utilizziamo è tratta sempre da Giamendo di Pornophonic e la canzone Sad Robot sotto Creative Commons. Francesco, ricordi se il codice U2 è ancora valido? Allora, io ho chiesto informazioni a Michelangelo, ho provato a mettere una U2 in un carrello e a mettere il codice ed è ancora valido. Okay. Quindi almeno penso fino a fine febbraio c'è. Quindi, poi vediamo. Quindi se comprare sullo store U2 una U2 o qualsiasi cosa che loro vendono di accessori utilizzando il codice Cookie scritto maiuscolo, avere uno sconto del 10% e le spese di spedizione saranno gratis. Noi pensiamo che fino a fine febbraio, però probabilmente ce lo potrebbero, come dire, allungare un po'. Noi abbiamo già chiesto se ce lo allungano, abbiamo anche già chiesto che se ci forniscono qualche numero, nel senso se la gente lo ha usato. Io mia scheda l'ho comprata con quel codice. Ok, perfetto, quindi viva i doppi sensi. Dopo averci fatto allungarcelo da YouTube, sai che non ci avevo pensato. Vabbè, non importa. Ricordatevi. Ok, a questo punto possiamo salutare tutti e ringraziare per il tempo speso con noi. Grazie mille. Ciao da Mario. E ciao da Torino da Francesco. E ciao qui dalla Sardegna da Giuliano.